attenzione canale 10 cambio. Attenzione alla canalità 10. Oh, attenzione, mon ami, c'è qui tu lì della Sardegna che ti fa appello ici alla stazione del tarorio della ville de Sassari. Su 10? Avanti, chi c'è? Avanti su 10. Attenzione, canale 10, brecco. Attenzione, 10. Hola, attenzione, canale 10, brecco. Brecco, brecco, brecco. Avanti, avanti, brecco. Ehi, ciao Cristian, già ne so. No, già, ma vado io, ma sto uscendo. Ed era quello di PL dell'antenna, non ti ringrazio, già fatto. No, oh, ti ho sentito, mi hai chiamato, io ti ho risposto e poi non mi hai risposto più. No, facevo PL, come diceva lei, PL che era, non faceva mai contatto. Adesso tutto va bene, dai. E cosa c'aveva, staccato? Ma invece era staccato, c'è un mondo, in particolare. E io? E vabbè, già adesso funziona, non c'è problema, dai. Cosa, Cri? Già funziona. Già va bene adesso. Io dico, dopo fa stiamo usando con Ambea, e frattempo stiamo modulando, dopo pranzo. Con chi? Andrea, che è quello che ha rifatto, col fratello di Sissi. Ah, Andrea, sì, con l'uomo. E con fratello che abita a Sissi, ci ha messo l'antenna. Cosa? Non ho capito. Con parallelo che abita a Sissi. Ah, sì. Lo so, me l'ha detto che abita a Sissi, fratello. E io mi anche lo sentivo, tranquillamente bene, senza problemi. Ma meglio. Ma il fratello sta ancora modulando qui. Sì, sta lì, cioè fa una, non sai, una bomba, non so, la casa, una ringo, boh, sul balcone, avevo questa scenaria, ma niente, usciva abbastanza bene, dai. E vabbè, comunque lui esce bene, per gli apparecchi che c'ha, li ha presi da Amazon. Antenna e baracchino e poi la paga 83 euro. Ma non c'è una bomba, faccio solo poco sicuro, la panica non per 30 mi. Io le macchina, figurati. C'è qualcuno che sta fischiando, ma. Ci sono cagnolini qua, Dio. Noi accettiamo tutto, magari sta controllando la stazionale, non si è reso conto che c'è gente. Come va questo microfono, Cristian? Meglio dell'altro o peggio? Va bene, una radio bella traposa, giusta come radio. Ma forte, bella amprosa. Sì, bella croposa, se mi piace come radio. Ma questo qua è il Turner Super Sidekick. Va benissimo, guarda. Già va bene, comunque ha fatto un affare perché per essere con un antennino sul terrazzo esce bene, anche qua gli va bene. Fuglia, guarda, io a carico sentivo 9-3 a carica, il fratello era Santiago 3 senza amplificatore, l'ho attaccato e guarda, da 9 a 9.30. Da 3 a 9.30? Ma attaccava con il lineare e arrivava da 9 a 9.30, attaccato. È staccato Santiago 3? Esatto, da Tissi. E gatti battiva via. E cosa vi gioco? Cioè, da Tissi, cioè, me segnare io, Che avrà avuto 1200 watt per uscire con quella potenza lì. Ma se va l'antenna 5 stazionale, aveva, figurati. E io, che ha pagato. E io stavo ascoltando un po' nelle altre bande. E niente. E poi si è entrato tutto. Esce che mi sta andato a Brunei, esce. Che è lui che è stata una giornata di merda per me, va tranquillo. Come mai? Ha fatto un bel. No, mio padre. È stato male? Diciamo, non riusciva a svegliarsi stamattina e mi ha chiamato mamma preoccupata, sono sceso a casa a fare il cannone. Stai uscendo con fischi? No, perché non si voleva svegliare, sono sceso a casa a vedere, poi si è ripreso, niente di grave, grazie a Dio. Ma qualche, cosa avete, qualche sonnifero, qualche tranquillante o roba del genere? Lirica da 100 ogni notte. Magari ne avete dato troppo, occhio, perché io avevo preso con l'ambulanza un uomo che stava dormendo da 2 giorni, la moglie non si è preoccupata, capito? 2 giorni drumito. Adesso domani viene il medico, visita e vediamo se abbassa il lirica, vediamo dai. E magari deve abbassare un po' le gocce che prende, perché a volte è quello lì che te lo fa. No, partite prende direttamente, no, non le prende gocce. E deve fare la metà invece che dargliene una, ne da metà. Potrebbe essere 100 e 75 direttamente. E magari 50%. Adesso vediamo dai. Sono un po' preoccupato, l'ho parlato stamattina. Che era lavoro, mi ha chiamato il principale, mica ha chiamato Nino e cioè, suo padre deve stare male. Cazzo, sua parità ripicchiata a casa, volando stavo sulla Budi Budi. Vabbè, interessante che si sia ripreso, va. E quindi si è assentato stamattina. Mi sono sentato una mezz'oretta, poi mi stava bene, poi sono andato al lavoro e ho sventiato lì, capito? E vabbè, sono cose che possono succedere. È capace che è troppo la dose e ne ha fatto quell'effetto. Mio padre è già preventivato il problema, perché ha già avuto un ictus e un tia, è già preventivato il problema, capito? Ho capito. Allora, mi ha sotto controllo, no, il medico l'ho vista bene, sotto controllo, sta tranquillo pure io. Guarda, tutto bene ciò che finisce bene qui. Quello già è vero, dai. Ecco. Avanti, chi è? Chi è che ha breccato? Avanti. Ma breccala dove non è? Io non sento neanche, cioè perché la breccia è abbastanza. Basso, già era basso, ma ha fatto un break, io l'ho sentito. Non si vergogna a entrare, vabbè. Già lo rifarà se vuole entrare. E vabbè, Cristo, dai. Adesso dove si? Adesso nella Sicilia, non ho nome da casa. Faccio il consiglio, però sono andato a casa. Faccio la barba, poi si trova al volo e poi niente di che. E vabbè, la giornata è finita. Esatto, ormai. Ma perché non te lo metti a casa? Guarda, faccio il tempo materiale per me, però sono ancora più giorni. Adesso mi vedo una donna, ma si è più se non vedo una donna anch'io un sabato lo sono messo con la voglia. Io mi ricordo là che ti ho detto, Cristian, che costa una cazzata e va bene. No, la pena, ma mi ordino e poi per 2 minuti non sento a casa. Ormai ha tutto aperto io a casa, non ho problemi. Infatti, cava ne ha. Sì, ne ho 10 metri di campo, e 58. E allora già va bene. Se è nuovo al capo, già va bene. Almeno quando arrivi a casa ti puoi fare una chiacchierata, se no una volta che arrivi a casa mi devi smettere e non puoi fare più nulla. Non so, vabbè, ma la macchina è più comoda anche perché io sono sempre in macchina, ma c'è abbastanza del tempo. Ma più di freddo pure. Ma guardate, se non giro in macchina sono commissioni, se sto a lavoro, c'è commissioni e poi sono a casa. Lo so, già lo so, ti vedo sempre. Ormai, vivo più in macchina che a casa mia io. No, io non sono così, prima già ero così, prima ero sempre in macchina. Poi cambiavo macchina, arrivavo al lavoro, scendevo la macchina per... Sempre in uscito, c'è un bel di me. Ci è uscito per un pezzo, Perché non l'ho schiacciato bene sicuramente, aspetta. Guarda a vedere, adesso ho messo la portante fissa così almeno esco. Adesso va bene. Sì, uso quello lì e basta, perché a volte non premo bene, perché quello del tunnel è più duro dell'altro, è bello sensibile qua. Questo è molto sensibile. Eia, l'altro è molto più sensibile, sì, il tunnel devi premere forte per uscire bene. Sì, già va bene, dai. No, ma questo qui, poi c'è i suoi anni, tu devi l'aereo tutto quanto ripristinato, tutto riverniciato, sembra uscito dalla fabbrica. Ma il capretto? Sì, sì, ho rigido un po' che io sono a culo. Ti stavo sorpassando? Sono rigido dietro a fondo schiena. Si sono fermati? Sì, sì. Eia, ma si sono fermati? Quindi c'è traffico. Avanti, 1, 2, 3, chi è? Avanti, quando c'è gente si fa break. Si muoveva mi da poco fa fatto un break e non è entrata. Adesso 1, 2, 3. E dove sei Cristian adesso? Io vedo la Gian Pascoli, diciamo, sono a casa tua quasi, dai. Ho capito. Ma perché passi da lì? Perché non giri alla prima traversa? No, di solito passo parate veloce, di solito, come adesso. Quindi, quando sono in zona vado adesso al mercato, dopo le due cartelle di spesa. Adesso quando passi sotto casa ti faccio passare a pagare il pedaggio. Dai, caro caro. Avanti se c'è qualcuno che vuole entrare. Hola? Dice bene. Ho detto che oramai questa frequenza è morta. Prima a quest'ora era tutto pieno di gente. Deceduta quasi ormai. Ma ne sta andando lui, bisogna sapersi ricoltivare le persone nuove che entrano, cercare di far andare avanti la roba. Sì, stasera con Giuseppe e Andrea parlando, stavo provando come stavano uscendo e stavo fatti compagnia molto volentieri. Chi Giuseppe c'era? Sì, quello di Andrea. Ah, cappa, sì. Andrea già arrivò bene. Ma strano, non l'ho sentito stasera, sarà al lavoro. Devo lavorare oggi, poi anche stasera mi ha detto, stasera posso essere secca, ma mi ha detto, ma adesso me lo ricordo di precisa neanche. Si arrangia anche lui a aggiustare la radio, a fare queste cose qua. Ma io faccio per altro. Ma tuo fratello faceva quel lavoro? Sì, allora, lui faceva per lavoro, faceva per lavoro a mettere a posto. E adesso non è giusta più la radio. E cosa ne so, dopo? Che hai inteso? Non l'hai più sentita tu? E che l'hai sentito? Io ogni tanto lo sentivo prima, adesso non ho sentito più nemmeno di là. Scusati, siamo fratelli molto attaccati, Ognuno ha conto i suoi, sì. Esatto. Capita anche nelle migliori famiglie. Ma tuo fratello lo vedo molto poco perché lavora per nonna Isa, già Porto Torres. Tu quanto lo vedo. Abita con voi l'altro fratello? No, abita per fatti sui in Sacro Cuore. Ah, cappa. Ho capito. Sempre la via gioca. No, capita della Sicilia lui, sposato con dei bambini, è contento. Ah, hai sposato tu? Sai la vecchia, non se ne va bene. E quando ne fa vinti, quanti anni vai? Tra la 46, io. 46, ne? Ehi, io. E ti facciamo più piccolo? No, 46, ho 46. Gara, e grazie si intendi, ha 80 anni a cui vai. Io non esploserò mai, ho avuto preso, che secondo te la dove che mi sopporta, ancora non l'ho trovata. Cerca! Adesso faccio solo una cosa. Scusa per il linguaggio a trombare. Oh, ho capito. Ma solo una cosa, uscire come le ragazze e fare le tante coccole. Ma poi non c'è niente. Poi cosa di concreto non c'è niente. Ci sarà più futuro, adesso si vedrà. Io così ho fatto quando ero ragazzo, dopo ho smesso. Sì, adesso ancora a fare così a casa, non c'ho tempo di uscire con ragazze, voglio stare tranquillo con mio padre un pochettino. E non c'è anche tua madre? Non so, ma mia madre non fa la pericola tanto, però che lì è invalida, Ah, buonanotte. Appunto, visto. Che bello. Vedi tu. Mia mamma gli ho fatto fare a dicembre, no, prima di a novembre, l'aggravamento per l'accompagnamento dal medico. E ha fatto la visita? Dovevo chiamare adesso. Occhio che l'ho mandato al telefonino, a me me l'hanno mandata e ho sbagliato il giorno, che se sarà andato il giorno dopo. Dice, ma lì era ieri, come ieri? E mi faccia la cortesia che non posso stare a tornare qua, c'è una gamba che mi fa male e cose. E meno male me l'hanno fatta lo stesso la visita. Non mi hanno passato e ma già me l'hanno fatta. Al telefono non ho fatto niente ancora, quando ce l'ha, non ho fatto da niente. Si pode? Avanti, caro. Ah, è Cristian, quando fai così ti temo. Ciao Natalino. Allora. Come sto uscendo? Ma c'è la parte mia. Cappa. Perché? Che problema c'è? No, stavo controllando una cosa, là. Ma non te ne ancora niente, Natalino. No, non ne ho piazzato ancora, no, io ho altre cose per la testa. Appena ho 5 minuti di tempo lo faccio. Mi devo organizzare perché la devo piazzare da fuori. Ma magari ci vuole meno di 4 pesci, perché quella tenaglia è leggera. Ma la devo piazzare da fuori, non hai capito? Ne devo togliere il palo da dov'è e piazzarla da fuori. Ci vogliono 3 scale. Ecco qua. Chiama i vigili del fuoco. Come c'è l'aerea? Ma non vive né a scala aerea, è paiso, se no non l'avevi affatto. Se avevo 2 scala aerea, gatta, l'avevi stata in 5 minuti. Manco un ballo l'avevi dimontato. Avevo bigliato di Sareccia e si è avvicuta in carriera e da poi l'avevi stata 2 nuova. 7 anni dopo ci siamo. Vai, per il Vella. Lombragno, dove piazza? Come qua? Aspetta un attimo, hanno suonato. Aspetta, chiamare Lombragno. Buona idea, ciao cra. Ciao, buonasera a tutti. Ciao cra, ciao. Oh signor. Altro che uomo ragno, Rimpiazzata l'antenna, la moglie già rimpiazzata. Ma sono stato impegnato in queste. Adesso sono impegnato per queste visite, queste cose che devo fare, non posso rimpiazzare l'antenna, no? Allora ti conviene aspettare il tempo buono, perché adesso inizia a peggiorare il tempo, poi inizia a tornare bello, adesso domani c'è maestrale. Stanotte penso che qualche goccia d'acqua la faccia, è un casino. Vabbè. Andrà bene Mela. Quando avremo l'opportunità di piazzarla, la piazzeremo. Non ne ho fretta io. Tanto, farà niente chi ve. Ma lo stai più disturbando, Natalia? Oh, io no, che non ho aggiunto più nessuno. E da voi Bruce di Ciubus attaccane a dove dico io, non c'è problema. Se si vengono a disturbarmi, vado in questura e li denuncio, non me ne sbatte nulla. E mi stanno perseguitando, li dico. Mi stanno facendo stalking. Vabbè. Come se c'è paietti usci. No, che sei gentimara, E però se sono Maria di Sokumaru Buru io, sono attenti. Mica, già c'è la Russia con l'Ucraina, Burundi può pure fare guerra. Io l'antenna la devo piazzare, volere o volare, quando mi decido la piazzo e basta. E dopo vengono a rompermi le scatole. Cristian, te ne frega, te l'ho data lì. Me ne frego sì. Io già non lo potevo vedere perché ho detto fermo l'antenna. Metto una scala, sono già sul tetto. Ma qua è più complessa la storia, se vedi come è piazzata ti fa vinto. Guarda, avevo visto cose strane in vita mia, ormai. Difendete da Gianni. Io c'è anche Claudio, avanti. Fatte. Però sono qua io. Sto ascoltando là anche. Cosa? Ho detto anche là sì, perché Andrea ti stava cercando per fare una prova. Ha detto che pensava che c'è, invece non c'è. Sì. Che ragazzo. Tu la stai ascoltando anche lì? No, adesso aspetto, poco fa stavo ascoltando. Va bene. No, sto facendo altro, sono anche lì, mi ascolto però, ma sto facendo altro. Io non ci riesco, se c'è uno non accendo altro. Non ci riesco a ascoltarne i due insieme. Normale. noi siamo un po' più abituati ad avere 5, 6, 7 radi accesi. No, adesso c'è il volume basso perché sto facendo un lavoretto, quindi ho sentito voi, sono andato a salutarvi. Cava, cava. Va bene, avanti, Tatarino. Allora, non sei che la devi aspettare, che l'arrestino, come l'arrestano, vai e ti morirà a te. Ah, oh, giuda, città nuda, io quando fa bel tempo, che mi dici anzi, adesso me la piazza all'altra parte e non la metto più nel coso, nella pipetta, gli metto le staffe così non la posso scendere senza scale, senza... Ma non è che è questa? Dove è andata lì dall'altra parte? Invece che essere dove è adesso, spostata dall'altra parte, mi metto le staffe, così ci vuole una, staffa, una scala piccola, ne la scendo in terra e poi telescopica, ne la scendo telescopicamente. No, potrebbe essere anche io. Ehi, ehi. I pali d'acqua, perché chi me l'ha bigiato? Ma quello che c'è io è grosso, è diverso da quello che avevi qui. Per il tuo meno centi fai prima. Ma grosso sempre telescopico di quelli comprati. E allora? È grosso, Non è. Non è fino questo qua. E poi gli devo aggiungere 4 metri di palo che ho nel portone, già pronti per metterlo almeno su altri 3 metri più su, capito? Quanto è la misura del palo? 3-4 mm? Non lo so quanto misura, però è grosso, no? Non è di quelli fini fini che si piegano, no? Se no si dai appiggiato con tutti i batturati che ha pigliato. E poi ha 4 mm di spessore di palo, di lamiera. E da dove ha preso questo palo? Sì, ce l'ho da un bel po', ne ho anche uno in campagna alto che c'è sopra l'antenna multibanda. Se mi rompo il catto di biglie me... e ne va rughissu. Dai, che cu... Cappaga. Comprato da Marcello e ho lasciato solo la base per non stare a smontare tutto, perché oppure si spaccassero i bulloni e non l'abbiamo smontata, se no c'è anche un'altra parte, la parte della base ce l'ho nuova in tubo d'acqua. Ho lasciato solo la base, quella che appoggia al muro, ma quella non la piega, e ci ho entrato il palo d'acqua, capito? E hai fatto bene, io te l'avevo detto di venire un barudera. E poi c'ho anche due spezzoni da 6 metri, dove c'è la manta da 5 in campagna, e sono 12 metri quelli. Già lo so, ma a me io c'avevo tutta tirantata l'antenna, l'ha preso da dietro dove non c'era il tirante, adesso gliel'ho messo un altro tirante, così almeno c'ha tutti i 20. L'ha presa da dietro, il vento ha girato, l'ha presa da dietro e l'ha fatto piegare il palo, capito? Perché i tiranti c'erano tutti da avanti, ai lati e cose, sono dietro che non c'erano, perché non c'era posto a mettere il tirante. Adesso il tirante l'ho messo, ti ricordo, dove ho fatto passare il filo, in quella staffa che c'era, ho messo il tirante da lì sino arrivare su. Ehi, vabbè, ma adesso sei grosso il palo, non te lo muove più. No, e poi è entrato dentro, è entrato un mezzo metro dentro l'altro palo. E io ne entro un metro di quello da 4 che ho preso da Marcello, quello da 4 metri, ne entro un metro dentro, lo chiudo ed è a posto. Poi l'antenna cosa avvisa, chissà chi va, giù niente. No, ho preso 2 kg a me. Allora, poi deve... No, guardatela lì, è buona, solo che il materiale non serve, il materiale che hanno messo è una cagata, si rompe. Non si rompe, basta piazzarlo bene, c'è Gianfranco che ce l'ha anni e non si è mai fasciato, non l'hanno rinforzato né nulla, l'ha piazzata ed è sempre in chili, è bento nei bigliami, ha pigliato i batturati che l'hanno bigliato altri bari, però chi s'antenna è rimasta sempre sopra. Non lo so. Può darsi che sia anche fatto come l'avete piazzata, ma niente, non è, non penso che sia quello, perché io qui dopo gli ho messo i rinfusi non si è più rotta, si è rotta più su, e prima su non si era mai rotta, e il vento diventa pigliato, come mai? Vuol dire che non è solo come una piazzata, può darsi che il vento tocchi un po' di più da me, io sono cauci a marimi, non è come Gianfranco. Gianfranco non prende il vento che prendo io, se tu assi che dove lo metti, Gianfranco a bisuglia, ti si brucia pure a te. Ma io già lo so che ne pigli il vento, ma anche Gianfranco ne prende il vento, Claudio lo sa. Sì, ma quando è a 120 km orari cazzo il vento, come il giorno che abbiamo piazzato con l'antenna, te lo ricordi? Te la buttai di burare, ci ha pigiato il bar. Ah, giumai, sto c'è a parlare la sinara, ragazzi. La buscia, già vira pure un Claudio, per poco la sinara ci trovo, la 120 veramente era. C'era Luca, io me lo ricordo ancora, c'era Luca Flipper sopra il coso dell'ascensore, sopra la cabina, con una corda che la tirava su e noi eravamo giù, uno la avvitava le viti giù, dei bulloni, e l'altro la drizzava piano piano camminando e lui tirava la corda. Cazzo, a Giovanni in cugina a te, ragazzi, a Giovanni si buccia muranno. E la buccia si è andata a vermi. Che è Togna Ventu? Te lo sto dicendo, lì quando tocca il vento è forte. Io non lo so da Gianfranco come sia, però da me so che è un bel forte, è proprio di fronte al mare, non c'è ostacoli, capito? È proprio di fronte. Se tu guardi da via Bonorma, si vede il mare, la nave, tutto cazzo si vede. Figurati qua già, 400 metri. Lo so, anche da te deve essere forte il vento. Però tu praticamente c'hai anche la salita, tutto quanto, caso, prima di arrivare, invece sono proprio di fronte, capito? Quello è il problema. Anche l'altro giorno, quando stavo piazzando il palo nuovo, c'era un vento, buia, così così che mi era fatta entrare l'antenna senza lo dubbio. È salita, non è più salita io. E beh, se la secca non è una salita, scusa. Sali, ma poi io sono in piano. Sono dove, lì dietro dove c'è la fermata dei tram, dietro il centro ecologico, quindi che è in piano, però sono a 400 metri, perciò anch'io vedo il mare, attenzione. Ma il giorno che ha fatto quelle raffiche di maestrale, lo sai, la Mantova e la Smart Tech come si piegavano in due, però non gli ha fatto assolutamente niente, anche Carlo mi ha detto che tiene molto bene il vento, ma non avevo dubbi, però quella essendo in fibra piega troppo, quando è esposta così, come sei tu, piega troppo e piega e la spezza, venuta va. Cioè, Franco è molto più in basso, molto più coperto rispetto a Gianni Natali, ma manca il paragone. Infatti, qui a Monte Morsi, però non ce l'ha di fronte il mare, è più coperto. Invece io ce l'ho proprio di fronte, io vedo cazzo la nave, vedo la nave da via Bonorma, io quando porto il cane vedo la nave, ci sono giorni che vedo la sinara, tutto cazzo. Io lo so, non c'è problema, io ho abitato in via Pascoli, quindi lo so, dal terrazzo si vedeva tutta legna, che tutto per ottobre c'è tutto, io anche da qua vedo tutto, però ripeto, sono delle antenne diverse. Io te l'avevo letto, quella non è l'antenna della montagna, lì dove monta l'antenna in alluminio, grossa, robusta, come quella che hai montato, tipo Mantova, tipo Smart Tech, anche la Smart Tech che tu avevi paura, tiene tantissimo il vento, mica Carlo è alto, è una posizione altissima, è molto, ma molto venturata, molto, perché anche lui da lì vede tutto, eppure mi ha detto, tiene molto, molto bene il vento, beh. Cirurgia sperimentata, figurati quello che gli ho dato, quella di Cagliari, la mia, no? Quello che gli ho fatto comprare io, è a Capoterra, e abita proprio a 200 metri dal mare, in una palazzina singola. Mi ha detto da paura, oh Claudio, mamma mia, da paura, pensavo che si spezzasse in due. Sì, domani la spezzi Sant'Enna. Però io non la potrei mettere qua, troppo alta, e c'è sicuramente in campagna, cosa, non dà problemi, ma qua magari ti dicono cosa perché è troppo evidente come antenna, troppo... Oh, anche quella che c'ho non scherza, c'è il radiale che sono il doppio della mantova, praticamente la mantova ne ha uno solo di radiale, questa qua ne ha due, uno aggiunto all'altro. Io glielo ho visto l'altro giorno, non a casa di Andrea, pare il gatto, o dice radiale, ma è un coso di baracqua bella, cazzo, poco sono grandi. Cosa deve dire Carlo allora? Cosa deve dire Carlo? Che c'ha un palazzo altissimo e questa antenna di 8 metri, cosa deve dire? Cosa c'entra? Perché quella molto più bassa, è un metro più bassa, cos'è? 7 metri quella, no? È che un metro, mi stiamo parlando di un metro e mezzo più bassa, cos'è? Non significa niente, capito? No, beh, comunque. Quella va bene, sono delle buone antenne, il materiale è buono, quindi lascia quella lì pulita. Tanto si faccia già, ce ne compare già un'altra, me la futta sei. Io ne ho già un'altra di scorta, è Smart Tech, figurati. Che me l'hanno chiesta però, purtroppo, ha preso il Covid, è quello che me l'ha chiesta, quindi non può venire a ritirarsela. Fatela giù di tu. Quando vieni, mi fai vedere il Green Pass e il certificato di guarigione, altrimenti dentro casa non entri. Ascolta, la Grazioli, hai visto quella che ha costruito 10 metri, allora ci vorrà la luce sopra. No, beh, se la metti nel palazzo che abitavo io sicuramente sì, ma così no, palazzi bassi no. Devi superare i 20 metri per mettere la luce. Io ero tra il palazzo e le antenne, ero al limite, insomma, sotto, molto sotto, sono dovuto mettere anch'io. Quindi immaginati, tu ero già 45 metri di altezza del palazzo, più le antenne, perciò infatti non le ho mai tirate molto su, massimo 3-4 metri, proprio perché se no se mettevo pari di 5-6-7 metri dovevo mettere la luce. Sì, l'ho vista grazie, ma non mi dice niente, già io sono soddisfattissimo di queste che ho, di questa della Smart Tech, sono soddisfattissimo. E quindi continuo ad andare avanti con questa. Ne ho venduto un mare. Mi stanno continuando a chiamare, però infatti niente, ne ho ordinato altre 10. Adesso arriverò al Corriere sta settimana, me le scaricherà tutte qua in magazzino e poi verranno a prendersela. Cristian, ci sei? Sì, sono ancora vivo. A Tarina si deve essere addormentato. No, mi sono addormentato, a chi? Già nel caldo mi chiamo io. Scatto addormentato mi sono, stavo facendo cosa? Ah, che ha pagato. Tu vista la Grazioli, perché non ti metti la Grazioli? 10 metri, anche mi dà, già esci da anche con la Grazioli. Non so ben se sia la Grazioli già, so ben se sia. Sempre la Smart Tech prima in assoluto, la Grazioli viene dopo. No, questo è un nuovo modello, Claudio, 10 metri, cazzo. È praticamente tutta in acciaio, tutta lavorata bene, c'è un bel lavoro. La mia in acciaio c'ha la parte di sotto e basta. L'altro vabbè tutto in alluminio, però la parte di sotto, quella che si dice nel tubo, è in acciaio. Tu devi vedere cosa abbiamo fatto, perché quell'antenna lì si incastra e basta. Entra un bel po' nel palo, però non c'è un blocco. Quindi abbiamo dovuto fare dei buchi e metterci delle viti per tenerla, per non farla girare, dai. E tra di me cosa abbiamo fatto per bucarla quell'antenna? Sì, ma non capisco perché l'avete dovuto fare voi questo innesto, quando uno costruisce le antenne deve predisporre le cose. La mia c'ha tutta la piastra in acciaio inossidabile, c'ha tutti i cavallotti in acciaio inossidabile e poi è fatta diversamente perché è un altro tipo di antenne. Sono tutte e due 7 ottavi, Gianni, anche la mia è 7 ottavi, anche la Grazioli è 7 ottavi. Non cambia assolutamente niente, però a prove tecniche ancora la Grazioli è molto indietro rispetto alla Smart Tech, molto molto indietro. Comunque, io non so perché avete voluto fare questi buchi. Se un'antenna è predisposta per entrare in un tubo, deve avere già i fori li avrei già a predisposizione. Vabbè, non la mia, c'è la piastra, e nella piastra in acciaio ci sono due raccordi in acciaio con chiave a 17 che stringono il tubo e rimane bloccato. Non... è abbastanza semplice a montare, quindi stare attento quando l'assemblaggio deve rispettare le misure, perché c'ha tutte le piastre di teflon, gli isolatori, le cose che vanno messe al posto suo, perché sono due antenne accoppiate in pratica. L'ho vista la tua antenna, già l'ho vista, sono passato l'altro giorno sotto. Cosa ti stavo dicendo? Praticamente la parte che incassa il tubo è abbastanza lunga. È stata una mia figlioleria, Claudio, mettergli anche dei viti per bloccarla, perché bloccava già così, era incastro, e quindi bloccava, è tratta incastro il tubo. Però una mia pignoleria, ho voluto mettere anche due viti per bloccarla bene. Sì, a quel punto lì ci facevi due fori con una buona punta, mettevi due bulloni passanti, sempre un acciaio inossidabile, uno sopra e uno sotto, capito? Perché poi le viti, si è messo viti autofilettanti, anche col tempo magari ti possono creare problemi, non mollano e si sfasciano, vedi trapanare, invece due bulloncini, anche chiave da 10, due bulloncini da 6, da 8, capito? E metterli all'interno, passante, con rondella, con quelle rondelle, quelle gove, e poi il dado autobloccante, e tu eri a posto. Ho messo viti autoperforanti, quelle che c'hanno, che praticamente tu avviti e ti fanno il buco loro. Sì, sì, ma se non hai messo quelle viti, ti ho detto, in acciaio inossidabile, col tempo, con la salsedine di quelle viti, anche se sono autoperforanti non c'entra niente, però se non sono in acciaio o acciaiose, col tempo, se sono quelle normali, ti si possono rovinare quelle viti, e quando vai a svitarle ti si rompe le cose e ti rimane la filettatura dentro, quindi devi trapanare per togliere. Invece era più facile forare del tutto, farlo passante, mettere due bulloncini con dado autobloccante in acciaio inossidabile, capito? No, sono in acciaio e poi le ho coperte col vulcanizzante, quindi non si avvicinisce niente. Già ho fatto tutto bene il lavoro, sono in acciaio, claro. Avanti, Natale, aiuto! Mettiamo questa antenna, dai! Aiuto, mettiamo tutto! Mi dammi la concetta, urlando! Sento un rumore di alternata sotto già. Alternata, boh, sarà la ventola. No, la ventola, però l'avrei due, la ventola. Ce la conosco, il rumore della ventola, perché alternata del microfono. Sto usando il tamper, boh, vabbè. Ma forte? No, la coppa è come modulazione. Ah, vabbè. Aiuto, piazziamo questa antenna, Natali, dai, così sarà il top. Appena c'ho tempo la piazzo, perché dice che farà brutto tempo in queste settimane, boh. Ce la diamo una mano, aiuto, organizzati. No, ma non è che fa brutto tempo, Natali, c'è vento, capito? Adesso domani, se non piove stanotte, domani non piove più, però c'è raffiche di vento, 50-60 km orari, sempre maestrale, capito? Buonasera a tutti, Natalia, io organizzati, ti diamo una mano noi, visto che era la mia, sono riuscito, io dovevo farlo in primavera, poi ho avuto il problema, ho buttato giù, adesso è perfetta, dovrei risalire e sollevare poco la spirale per buttare giù un po' di stazionaria nei canali alti, ma del resto è perfetta. Come va quel lavoro che è stato fatto bene? Alla grande, ero un maestro, no, non c'è niente da dire, ero un maestro. Sì, perché avevi dubbi. Non ce n'è per nessuno, c'è le mani d'oro, non ho fatto certi lavori allucinanti. Chi è la gava? No, è bravo, no? Poi si assilla un bene, no, è fatto, guarda, già la base, quella lì era morta, dove c'è infilato il palo lì, era tutto rugginoso, era tutta spaccata. Meno male sono riuscito a procurare il pezzo, anche se l'abbiamo procurato da un altro amico, comunque era più sottile, però un altro amico mi ha dato proprio il pezzo giusto e mi ha fatto il pezzo suo, ma un capolavoro. veramente bella, lucida, lucida, cambiato tutto, è un bijou. Ascolta, cosa, ma l'hai già piazzata, stai uscendo con quella? No, io non sono a casa adesso, non sono a casa, no, non l'ho piazzata. Poi l'amico Gianni mi ha dato i coperchi dell'apparecchio, gliel'ho già cambiati, mascherina, l'apparecchio è nuovo di pacca. Di che apparecchio stai parlando? 3009. Apparecchio, cazzo, non vedo anche apparecchi, facciamo invece qualche HF. E vabbè, apparecchio, baracchino, quanto devo chiamare? Io chiamo apparecchio, sembra un apparecchio, un utensile, un coso, quanto devo chiamare? Boh, chi su chi è? Però sto nuovo, nuovo, manca solo la scatola. E già va bene, l'importante è avere le radio a posto, poi quando c'è un graffietto ci può sempre rimediare, ci può sempre rimediare, non è un problema, ma quanto la radio all'interno sia a posto e funzioni bene, per quanto riguarda poi i graffietti e le cose, che problema c'è? Avanti Gianni, riprendi. Sì, ma quelli che le ho dato io i coperchi erano nuovi. Nuovi di Zecca, c'è la mascherina che i coperchi che li avevo comprati da internet. Avevo comprato sia quelli del coso, dell'Aran 48, che quelli da questo tipo. Non so se era un tecnico o che cosa, però c'aveva i pezzi nuovi di Zecca. Boh, non lo so se li ha comprati anche lui. L'ho pagato così una fesseria, mi ha dato tutto, staffa, tutto quanto. Se quelli dell'48 li ho dati a tiro e quelli del coso del 3009 li ho dati a Luca. Hai fatto bene, hai fatto benissimo, alla grande KK. Avanti Natalia. Cristian, vai. Cristian invece era rimasto già a casa. Gappa gappa, va bene io. Lucrezia, Lucrezia, e quando non fa quel lavoro, Lucrezia? Non ho capito già. Sì, lo sai cosa bisogna fare? Con due radio, uno sta su e l'altro giù, come abbiamo fatto a casa, anche col telefono lo puoi fare. Io con Franco l'ho fatto col telefono, lui su e io giù. Io controllavo le stazionali, lui le regolava, dicevo, boh, blocca così. Non si muove nemmeno, lago. Solo sul 40 si muove fra 1 e 2, boh, basta. Ah, vabbè, già abbiamo un amico che c'ha lo strumento, saliamo direttamente, anzi salgo io, gli aggancio il cavo, lui da giù mi dice cosa fare, mo lo aspirare, se la abbassare la abbasso, se la sollevare la sollevo, ma dovrebbe sollevare ancora, perché tutti ho mandato un coso lì su CB, in quei gruppi, e praticamente, come si dice, mi hanno detto, questa è gente che la conosce bene, di sollevarla, se nei canali bassi la devi abbassare, se nei canali alti la devi sollevare. Minchia, stavo guardando attentamente, mi ho messo appositamente gli occhiali, cioè avete una differenza, così, perché Gianni tu sei liscio adesso con il Galaxy, sento il beep, sicuramente sei liscio normale, perché sei 9 più 10 con la tua antenna sul tetto. Cazzo, tu immaginati che Luca con quella boomera arriva 9,5 modulato 9,6, 9,7, cioè allucinante. Se metti quell'antenna dove la stavamo mettendo, lui, altro che Mantova. Ma purtroppo non lo posso fare. Ma tranquillo che a casa non l'avrebbe fatto una cosa del genere, se lo posso garantire. Siccome qua non sono a casa mia, lui mi sa a quanto pare anche comprato. Non lo so, ma forse sì. Purtroppo mi devo guagliare a mood e andare così. No, ma vai benissimo, c'è la marina, c'è un segnalone qua. Forse perché io sono molto in alto, di nuovo, mi percepisco e i segnali sono tutti forti, ma tu arrivi veramente molto molto forte con quell'antenna, arrivi veramente forte, ti ho fatto il paragone, cioè Gianni è 9,10 più alto di te, però tu stai usando una boomerang e sei 9 più 5, vai veramente molto molto bene. Vabbè, peccato, avevamo proprio in mano un bel lavoro lì il giorno, invece non se l'ha fatta piazzare già, ne ha fatto a Bose, grazie a Tuccadu, a Giumello Caffarrasci. Ma sul tetto la stavate mettendo? Allora, sul tetto, avevamo già pronto, avevo già buccato, ho messo già le staffe e tutto il palo, ho avuto togliere tutto, togliere anche le staffe, toccare, fai qua, lascia aperto. Un casino, solo perché il cavo, l'antenna non ha detto niente per l'antenna verità, il cavo scendeva a fianco al suo poggiolo, aveva dimmi due razza di gazzata. E quello è il caso che c'era nel mio condominio che se ne devo andare dopo un mese che l'ha venduta la casa, ne vogliamo parlare, non mi ha fatto mettere il tassello. C'è gente malata veramente. Ma io per anni, ma quando ho cambiato le antenne erano sempre dove sono, mica li ho toccate. Avevo preso il cavo e l'avevo fatto scendere lungo le finestre sino ad arrivare al secondo piano. Mai nessuno mi ha detto niente, mai, assolutamente. Una volta una mi sembra del quinto. Ma detto, signor Cramo, ma questi cavi che scendono cosa sono? Di chi sono? L'ho detto i miei, sono già vado, deve avere qualche giorno di pazienza che pure devo mettere dentro il cordiale. No, volevo sapere solo che cosa era, perché non c'erano, capito? Per fastidio di razzi, non è che verrai in altra roba come, no? Ti passano a fianco, capito? Però quando c'è gente imbecille, infatti dopo un pochino avevo chiamato l'autoscala e avevo messo dentro il pluviale, però per dire, questo è proprio salito con l'intenzione di rompere le palle. Io le ho messe a fianco al pluviale, le ho legati con le fascette, quelle larghe e grosse, però quello del piano di sopra non mi ha fatto entrare per mettere la fascetta, mi ha detto che non poteva perché c'era la camera in disordine, non mi ha fatto entrare, mi sono tornato. Cioè un piano l'ho lasciato senza legare, però è abbastanza in tira, quindi non balla né niente. L'ho legato solo all'entrata del terrazzino mio e basta. No, vabbè, mio, sto parlando di un pluviale da 250, già, non sto parlando di un tubo d'acqua normale come quello tuo. Un bel grosso, quindi fascette così grandi non ce n'è. Capito? Io quindi cosa ho fatto? Ho messo tutti i cavi dentro un corrugato e li ho fatti scendere all'altezza della mia finestra, ho fatto il buco nel più vero, una finestrella, ho fatto uscire il corrugato sino ad arrivare al marmo della finestra, poi ho preso i cavi e li ho fatti entrare tutti dentro, capito? Tutto qua. Però di là Luca, quando abbiamo smontato le antenne, come erano i miei PL, i miei cavi e le cose, tutto nuovo, perché erano protetti, capito, sia dall'acqua sia da tutto, erano protetti. Infatti qualcosa l'ho recuperata, però poi ho comprato 50 metri di H1000 e l'ho cambiato. Adesso infatti ne ho altre 20 metri, ma io qua adesso ho cavi, il più lungo mi pare sia 12, 13 metri, 15 metri, prima di anni avevo 45 metri, ne avevo 45, 50 metri, tutto qua, va bene, a chi tocca. E mi pare che sono tutti quanti occupati, cazzo stavo dicendo, ma dentro il pluviale non prende umidità il cavo. No, era dentro il corrugato all'inizio e alla fine del cavo, prima di entrare c'era tutto il mastice protettivo, quello per vetri di macchina, capito? Ma l'ha fatto Roberto. Ho capito. Beh, lo sto combinando col microfono, non sei uscito già. Sono uscito? Adesso guarda. Sì, adesso sì. Adesso uso il look, perché a volte lo premo male, perché questo microfono è diverso dall'altro, l'altro è come lo tu che è sensibile, questo devi calcare bene. Anche il mio è così, ogni tanto, l'ultima volta che l'ho usato lo stesso, devo calcare bene perché sennò ho pulito tutto e andava bene, ma adesso è 5-6 mesi dentro l'armadio, ne ho tolti tutti gli MBP5, non c'è più posto di nuovo, tutto conservato, lasciato il Galaxy col microfono normale e basta, il resto oramai ho rimesso tutto in funzione, non c'ho più posto, ho di nuovo 4 MC60, figurati, quindi non c'era posto per quelle, ne ho tutti. KK. Quindi ho ripreso in pieno con l'attività radioamatoriale. Oddio, non è pieno. Quando ne ho voglia parlo, quando ne ho voglia non ci parlo, però ho messo tutto in ordine, tutto come era prima. Anzi, ho comprato 3 radio, ho ricomprato 3 HF e poi un VU base, un 820H della ICOM, e poi altri 2 MC60, uno dalla negozio in continente, l'altro me l'ha venduto Vannino. Vabbè, io ero quasi convinto che non entrassi più perché ha detto che devi un altro CB e CB vorrebbe stare, non ti affrontia più nulla, invece adesso di nuovo hai ripreso, diciamo, a parlare lì e vabbè, sono ripensamenti che uno ha poi. No, io non ho mai detto che non facevo più l'animatore, io ho detto che a differenza di tante altre persone, qua sono nato e qua voglio morire, non è che mi dimentico degli amici che ho, di quelle poche persone che sono rimaste nel 27, però c'è pochissima gente già, quindi è chiaro che devi dare un colpo a una parte e un colpo all'altra. Ma in questo periodo sto facendo pochissima attività, già una settimana, non ne ho voglia, non mi sento bene, sento dolori, capito? E quindi non ne ho voglia di stare né da una parte né dall'altra, in definitiva, come dice Franco Califano, è così. Non ho più problemi di far radio, proprio me, non sono in forma, capito mia? Ma diciamo che qualcuno nuovo sta entrando e sono contento di questo. È entrato Carlo, è entrato Andrea, adesso Giuseppe, il fratello, insomma, qualcuno nuovo sta entrando. Sì, a me entra, ma poi si nanda, io sto parlando di quelli vecchi come noi. Sì, Andrea qua arriva alle 9 da via Mendola, quindi non voglia che arriva, non c'è problema. A Giuseppe non l'ho ancora sentito, ma Andrea l'ho già sentito, infatti gli ho fatto anche i complimenti per l'antenna che ha.